Il conto alla rovescia è partito. Stasera si saprà chi fra i 5 finalisti si aggiudicherà il premio Strega, il più ambito dagli scrittori e dalle case editrici. Del resto, vincere lo Strega significa vendere in media 100.000 copie in più. E in un periodo di crisi come questo è cosa decisamente desiderabile. A votare saranno i cosiddetti amici della domenica, 400 persone del mondo della cultura che avevano già scelto la cinquina. A questa giuria si aggiungono 60 lettori forti. A presiedere sarà, come da tradizione, il vincitore dell'anno scorso, Edoardo Nesi. Mi impegno a essere un presidente serissimo e a scandire i nomi con la massima precisione. È abbastanza divertente. Io davvero provinciale credo molto a tutte queste cose. Mi sembra una cinquina abbastanza equilibrata, che credo non sia poi una sorpresa per nessuno. I favoriti sono Emanuele Trevi con il saggio romanzo su Pasolini pubblicato da Ponti alle Grazie e Alessandro Piperno Mondadori con la seconda parte del dittico sulla famiglia Pontecorvo. È probabile che se la vedranno all'ultimo voto, mentre il terzo incomodo potrebbe essere Gianrico Carofiglio Rizzoli. Vengono considerati un po' fuori gioco Marcello Fois, i voti Einaudi potrebbero confluire su Piperno, e la giovane Lorenza Ghinelli, Newton & Compton. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.